Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I'm very, very happier now because maybe if I won this title at the beginning of my career, now I forgot. No, now I'm very, very old man and then I can feel much better. Questo, che parla inglese piuttosto bene, non tutti gli allenatori di calcio italiani all'estero parlano così, è Ranieri, ormai lo sapete. Ieri stavamo seguendo qui effettuando proprio gli ultimi minuti di quella partita Chelsea-Tottenham, perché da quella partita dipendeva il destino dell'Leicester, questa squadra inglese che ormai è entrata nel mito perché aveva iniziato il campionato per la salvezza, invece poi è diventata campionessa o campione, a seconda che si dica squadra o si dica il nome stesso, Leicester, quindi d'Inghilterra. E Claudio Ranieri è l'allenatore, e ha detto in questa intervista, molto brevemente, si è concesso molto poco, ha detto: è bello vincere da vecchi, perché se avessi avuto questa vittoria da giovane magari a quest'ora me ne sarei già dimenticato. Quindi è stato anche spiritoso. Quindi noi non torneremo su questo evento, su questa favola, ne abbiamo già parlato ieri e se ne è già parlato ampiamente anche oggi, ma su tanti altri argomenti. Per esempio, oggi sapete che è arrivata una nuova tegola sul PD, questo arresto del sindaco di Lodi, che si dice innocente, accusato di turbativa d'asta, è stato arrestato e lui, il PD lo difende, almeno il vice segretario Guerini, che è stato anche suo sindaco, era stato sindaco a sua volta Guerini di Lodi e lui era stato assessore due volte. Vedremo un po' come prosegue anche questa vicenda, sicuramente non fa bene in questo momento al Partito Democratico. Poi, per quanto riguarda invece sempre la regione Lombardia, in realtà Mario Mantovani, vi ricordate che era stato arrestato, accusato di corruzione, vicepresidente della regione Lombardia, ora non lo è più vicepresidente ma vuole rimanere consigliere della regione. Oggi si è presentato perché era agli arresti domiciliari, poi per un cavillo legale è stato scarcerato qualche giorno fa, è tornato oggi negli uffici regionali, ha detto: voglio continuare a fare il consigliere perché se lo meritano i miei elettori, devo rispettare il loro mandato. Ci sono state le proteste del Movimento 5 Stelle, anche su questo ci soffermeremo. Poi si torna ancora a parlare del caso Regeni, naturalmente è una notizia, un fatto, un caso che teniamo sempre alto, però qual è la novità? Che pare sia stata inviata per errore da parte del governo egiziano una mail ai media egiziani in cui si svela un piano segreto per censurare i media, la stampa, TV, radio, eccetera, sul caso Regeni. Quindi questo cosa significa? Che si confermano ulteriormente i sospetti che l'Italia ha su quella che è stata la fine di Regeni. Ne parleremo, così come ci occuperemo anche dell'auto senza pilota. È vicinissimo, doveva essere ufficializzato oggi questo accordo tra Fiat Chrysler e Google per l'auto senza pilota, è slittato a domani, dovrebbe arrivare domani, ma noi ne parleremo comunque. Un fatto veramente bizzarro immaginare, no? Le nostre strade piene di auto senza conducenti. Bene, allora, l'argomento che vi sottopongo oggi, prima di passare alla sintesi della giornata, è questo. Ieri, vi ricordate, c'è stata la sentenza della Cassazione che ha annullato una condanna per un giovane straniero senza fissa dimora a Genova che aveva rubato da mangiare per il valore di 4 euro. Ha annullato la sentenza di condanna alla Cassazione dicendo che non è punibile chi, spinto dal bisogno, ruba al supermercato delle piccole quantità di cibo per far fronte all'imprescindibile esigenza di alimentarsi. Oggi sono arrivate le reazioni di chi dice: ma chi è quell'aguzzino a cui è venuto in mente di denunciare quest'uomo e farlo passare per 3 gradi di giudizio per aver rubato 4 euro di roba? Beh, invece c'è qualcun altro, come il sindaco di Verona Tosi, che dice: beh, no, rubare è sempre reato, magari potevano comminargli una pena molto leggera, però bisogna sancire il fatto che rubare è comunque reato. Mentre voi riflettete e scrivete le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure utilizzate il numero per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666, passiamo alla sintesi della giornata. Lodi arrestato per appalti truccati, il sindaco PD della città che si dice innocente, Guerini difende l'ex braccio destro e 5 Stelle all'attacco. Economia, la Commissione europea vede in Italia una crescita moderata ma rivede a ribasso il PIL 2016 dall'1,4% all'1,1%, ancora una giornata difficile per le borse. Il caso Regeni, mail inviata per errore dal ministero egiziano ai media con un piano segreto e ordini di censura per stampa sul caso del giovane ricercatore torturato e ucciso. Migranti, l'Europa va verso l'abolizione dei visti alla Turchia. Siria continua la carneficina ad Aleppo, altri 14 morti nel bombardamento di un altro ospedale. Israele condanna l'ergastolo per l'israeliano che rapì e bruciò un ragazzo palestinese di 16 anni. auto, in arrivo l'accordo tra Fiat e Google per la macchina senza conducente, per il calcio la festa dell'Ester naturalmente, Ranieri che dice solo gioia, nessuna rivincita, e ora in campo la partita tra Bayern e Atletico per decretare la prima finalista di Champions. Partiamo quindi da questa nuova inchiesta che coinvolge il PD. È stato arrestato questa mattina il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, braccio destro di Lorenzo Guerini, che è vice segretario del Partito Democratico. Ho agito per il bene della città come ho sempre fatto. Queste le parole riportate dal legale di Uggetti. È stato arrestato in mattinata con l'accusa di turbativa d'asta il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, del PD. Avrebbe favorito con un bando su misura la società Sporting Lodi nella gestione delle piscine comunali scoperte della città. In manetta insieme a lui l'avvocato Cristiano Marini, consulente della Sporting. Il procuratore di Lodi, Sara Mantovani. Questo avrebbe assicurato alla gestione di Sporting Lodi l'intera situazione delle piscine comunali di Lodi per i prossimi 6 anni, escludendo completamente i concorrenti, e nei confronti del sindaco, trattandosi di società dell'Lodigiano, avrebbe avuto un riscontro anche in termini politici. L'inchiesta è partita dalla denuncia di una funzionaria del comune che avrebbe dichiarato di aver subito pressioni indebite da parte del sindaco nell'assegnazione del bando di gara. Pur consapevoli di realizzare degli illeciti, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, gli indagati manifestano apertamente il fastidio derivante da chi denuncia le loro condotte contrarie alla legge. Un atteggiamento, aggiunge il GIP, veramente disarmante quanto allarmante. I due arrestati avrebbero anche tentato di cancellare le prove. Fra le condotte accertate c'era la formattazione di alcuni computer in uso agli indagati anche dello stesso comune. Simone Uggetti, 42 anni, è stato dal 2005 al 2013 assessore all'ambiente di Lodi nelle due giunte PD guidate da Lorenzo Guerini. Eletto sindaco nel 2013, è stato ora sospeso dalla carica. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E subito è arrivata la controffensiva naturalmente dell'opposizione, di cui parleremo tra poco tornando sull'argomento. Oggi intanto negli uffici della Regione Lombardia, come vi dicevo, è tornato a sedere come consigliere Mario Mantovani, Forza Italia, ex vicepresidente della Regione, scarcerato in questi giorni per cavilli legali dopo l'arresto per corruzione che lo ha tenuto ai domiciliari e lo ha fatto decidere per la rinuncia alla carica di numero 2 del Pirellone. Mantovani ha spiegato di voler rimanere consigliere regionale, dice, per dignità e rispetto degli elettori. Riuscendo a prendere la parola in aula dopo le contestazioni del Movimento 5 Stelle, l'esponente di Forza Italia ha ribadito di ritenersi innocente. E siamo all'economia. Erano attese per oggi le previsioni economiche dell'Europa. Ebbene, ci sarebbe solo una ripresina per il nostro paese, quindi promozione a metà da parte della Commissione europea. È una crescita moderata quella che secondo Bruxelles attende il nostro paese, con il prodotto interno lordo trainato comunque da un aumento della domanda interna. Gli obiettivi fissati da Palazzo Chigi però sono lontani, più 1,1% nel 2016 dal più 1,4% delle previsioni, confermato invece il target dell'1,3% per il prossimo anno. Segno positivo anche per l'occupazione, più in termini di ore lavorate, spiegano però dalla Commissione europea, che di persone occupate. Sul fronte delle politiche di bilancio si sottolinea invece il rischio di un peggioramento del saldo strutturale e, punto più importante, secondo Bruxelles il debito non scenderà quest'anno. Da Palazzo Chigi un commento indiretto arriva attraverso la consueta e-news del Premier. Da quando siamo al governo, rivendica Renzi, ci sono 398.000 posti di lavoro in più e 373.000 disoccupati in meno. Tuttavia non basta, guai a chi si accontenta, il Jobs Act è solo l'inizio. Il Presidente del Consiglio rilancia anche l'azione per il Sud perché, spiega, se riparte il Mezzogiorno riparte l'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi la borsa, il giorno dopo la bufera sulla Popolare di Vicenza, scusate, pesano ancora i titoli bancari. A mostrare i muscoli ci pensa Tecnogym al debutto. Le previsioni della Commissione europea, che intravede una crescita modesta in Italia e nell'Eurozona, prevedendo un incremento del PIL nella zona euro di solo l'1,6% quest'anno e dell'1,8% il prossimo, in calo rispetto alle stime precedenti, non aiutano una giornata di borsa che fa segnare il rosso ovunque nel vecchio continente. Piazza Affari chiude a meno 2,5%, peggiore insieme a Madrid. La Spagna è accomunata all'Italia dal calo dei titoli bancari e da previsioni europee che considerano impossibile il raggiungimento dell'obiettivo deficit prima del 2018. Giù, come detto, anche gli altri listini comunitari sull'onda dei rinnovati timori relativi alla crescita mondiale. Prima l'analisi di Bruxelles, che cita l'incertezza legata all'economia cinese e ai rischi legati a una possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione, poi gli stessi dati economici sulla contrazione del settore manifatturiero a Pechino, uniti al taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Australiana, hanno contribuito a porre seri interrogativi sullo stato di salute dell'economia globale. Tornando all'Europa, preoccupa il settore bancario, con le trimestrali deludenti di Commerzbank, arrivata a perdere quasi 10% sul DAX e di UBS giù dell'8 a Zurigo. I bancari sono stati una zavorra pesante a Piazza Affari, dove l'unica buona notizia è arrivata dall'esordio di Tecnogym. Euro sempre in crescita sul dollaro, con la moneta unica che in giornata arriva a toccare quota 1,16 nel cambio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il caso Regeni, una mail, vi dicevo, sarebbe stata inviata per errore dal ministero egiziano ai media con un piano segreto e ordini di censura per la stampa sul caso del giovane ricercatore torturato e ucciso. Quindi una conferma di come potrebbero essere andate le cose, purtroppo è sicuramente non una, diciamo, una buona disposizione all'auspicata collaborazione con l'Italia. Ne parleremo, vi dicevo, più tardi qui effetto notte. Occupiamoci anche di immigrazione. L'Europa va verso l'abolizione dei visti ai cittadini della Turchia che vogliono girare liberamente nel vecchio continente, questo nell'ambito di quell'accordo che c'è stato tra Unione Europea e Turchia. Sarà il tema stasera dello spazio europeo. E sono 113 i morti intanto in 4 naufragi davanti alle coste libiche tra venerdì e domenica scorsa, a riferirlo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E oggi in Italia altri arrivi con i corridoi umanitari, mentre arrivano i richiami del commissario Avramopoulos e dal ministro Padoan. Nella giornata in cui l'Italia accoglie un centinaio di profughi attraverso i corridoi umanitari attivati da comunità di Sant'Egidio e Chiesa Evangelica e Valdese, il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos si scaglia contro i ritardi nel piano di ricollocamento deciso dall'Unione Europea per il trasferimento di 160.000 migranti. Poco più di 1.400 le persone ricollocate fin qui da Italia e Grecia, troppo poche secondo Avramopoulos, che non esclude azioni legali. Il piano è vincolante e gli Stati membri hanno un obbligo morale e legale ad attuarlo, ricorda il commissario. Nel mirino del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, invece, finisce la crisi degli accordi di Schengen, ritenuta più pericolosa della crisi dell'euro di qualche anno fa, perché, aggiunge, rischiano di prevalere le visioni nazionali dell'Europa. Questa è la voce del piccolo Talal, in fuga dalla guerra in Siria. Basta muri, basta vittime nel Mediterraneo. È il messaggio che manda la comunità di Sant'Egidio, accogliendo i 100 profughi a Fiumicino. Il fondatore Andrea Riccardi. Siamo molto contenti di avere realizzato un ponte verso l'Europa. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Siria, Francia e Gran Bretagna hanno chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla città siriana di Aleppo. Nelle ultime ore l'attacco sulla città si è intensificato. Secondo la TV di Stato sarebbe stato nuovamente attaccato anche un ospedale con decine di vittime. E in Israele, Yosef Ben David, l'israeliano accusato del rapimento e dell'uccisione di un ragazzino palestinese che fu bruciato vivo a Gerusalemme, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale israeliano. Di nuovo in Italia con la cronaca, con questa pena pesante a Roma per pedofilia. Lo diceva lui per primo. Sono andato a portare 50 euro ad un fidanzatino mio. Mi mettono in galera, guarda, raccontava al telefono. E in effetti, dopo l'arresto a febbraio per Claudio Nucci, ora arriva anche la prima condanna, 15 anni per l'ex PM romano per aver fatto sesso con 3 minorenni in cambio di soldi. 15 anni e in rito abbreviato, ha stabilito il giudice, rispetto ai 18 chiesti dal PM. Nucci è stato particolarmente abile, commenta ora l'avvocato di parte civile Cristina Cerrà, nello scegliere le vittime più vulnerabili. Il meccanismo era sempre lo stesso. Lui chiedeva foto e video ai ragazzini, poi se questi provavano a tirarsi indietro, minacciava di raccontare tutto ai genitori. Nome noto agli ambienti mondani della capitale, tra i suoi 4.000 contatti su Facebook, Nucci aveva anche Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varanni al Collatino. Ora ha davanti a sé una condanna a 15 anni e una multa di 30.000 euro, oltre ai risarcimenti successivi per le vittime. Raffaella Calandra, Radio 24. Sulle 24 ore. Sempre con la cronaca, a proposito della giovane donna morta incinta di due gemelle a Milano, 4 persone, tra medici e responsabili della clinica Mangiagalli di Milano, sono indagate per omicidio colposo per la morte avvenuta lo scorso 28 aprile di Claudia Bordoni, la donna di 36 anni incinta di due gemelle che era ricoverata nella struttura per complicazioni della gravidanza. Le iscrizioni sono a garanzia in vista dell'autopsia fissata per giovedì prossimo. Non risultano invece indagati il San Raffaele e l'ospedale Busto Arsizio, dove anche la donna era stata ricoverata prima. E poi un brutto colpo invece per Johnson & Johnson, che dovrà pagare 55 milioni di dollari a una donna americana. Un tribunale in St. Louis ha ordinato un maxi risarcimento nei confronti di Gloria Ritzand, di 62 anni, del South Dakota, la quale afferma che l'uso per anni di prodotti a base di talco l'ha portata a sviluppare un tumore ovarico. Si tratta del secondo verdetto sfavorevole per Johnson & Johnson, dopo essere stata condannata a febbraio a pagare 72 milioni di dollari alla famiglia di una donna dell'Alabama deceduta in seguito a un tumore alle ovaie che l'aveva l'aveva citata in giudizio, sostenendo che la malattia e quindi la morte erano dovute a questi prodotti contenenti talco. E non è tutto, poiché l'azienda sta affrontando circa 1200 cause legali con l'accusa di non aver informato gli utenti sui rischi legati ai suoi prodotti a base di talco. Tramite la portavoce, Johnson & Johnson ha però affermato che presenterà in entrambi i casi appello. A suo parere queste decisioni sono contrarie ai risultati di decenni di ricerche che sostengono la sicurezza del talco. E ora auto, quello che ricordavo all'inizio, c'è un accordo che per ora in realtà è stato solo rinviato, doveva arrivare oggi la risposta definitiva, invece è slittato domani. L'accordo è quello tra Fiat Chrysler e Google per realizzare l'automobile senza guidatore. L'annuncio dell'intesa, vi dicevo appunto, dovrebbe arrivare domani, ma ne parleremo comunque qui a Effetto Notte. Per chiudere il calcio, non solo la festa dell'Ester con Ranieri che dice questa è solo gioia, non è una rivincita, c'è anche una partita in corso per la Champions, ne è vero Dario Ricci? Che partita, Roberta, perché questa sera la Champions elegge la sua prima finalista, finale, vale la pena ricordarlo, il 28 maggio, sabato 28 maggio, proprio qui a un chilometro dalla nostra sede, a San Siro. Ebbene, siamo al 32esimo di gioco all'Allianz Arena, Bayern Monaco in vantaggio 1-0 sull'Atletico Madrid, proprio un paio di minuti fa è arrivato il gol che finora decide questa sfida, calcio di punizione di Xabi Alonso dal limite, la deviazione della barriera madridista che non lascia scampo ad Oblak, quindi Bayern Monaco in vantaggio e di fatto però sfida in assoluta parità, visto che all'andata era stato proprio l'Atletico Madrid ad imporsi per 1-0. Stando così le cose si andrebbe ai tempi supplementari, ma è ancora lunga. 33esimo di gioco, Bayern 1, Atletico Madrid 0. Abbiamo tempo di aggiornarci allora con Dario Ricci, invece volevo aggiornarvi sui vostri messaggi che stanno arrivando a proposito del tema che vi sottoponevo questa sera. Ieri la sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna per un giovane straniero che ha rubato per fame. Dice la Cassazione, se uno ruba per fame roba da 4 euro non è punibile. E allora c'è chi ha detto, ma chi è questo scellerato, questo aguzzino che lo ha denunciato e quindi fatto passare attraverso 3 gradi di giudizio per 4 euro? E invece chi dice, come Tosi, sindaco di Verona, in realtà rubare è sempre reato, potevano almeno comminargli una pena lieve. Che cosa rispondete voi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666? Qual è il vostro parere? Cristiano scrive: la giustizia, che è entrare nel caso singolo in tutta la sua autentica essenza, si è resa ascolto, immedesimazione, compassione, empatia, ha superato la fredda logica applicazione della legge. Poi invece Luigi da Como scrive: ma come mai i politici che rubano milioni nemmeno il primo grado? Poi Costantino dice: adesso tutti a rubare, basta stare attenti a non superare i 5 euro. Padova, Carla da Padova dice: in tutte le città ci sono le mense per i poveri, esempio la Caritas, ma non solo, quindi rubare per fame è una scusa, rubare è rubare e basta. C'è ancora Dario Ricci? Un altro gol, così in diretta, dai. Sì, perché calcio di rigore per il Bayern Monaco, Thomas Müller sul dischetto dopo il fallo di Jimenez su Martinez. Arriva, parte Thomas Müller, il tiro parato da Oblak, parato, doppia parata del portiere dell'Atletico Madrid. Che colpo di scena, Roberta, che raccontiamo in diretta. 35esimo di gioco, Bayern Monaco sempre in vantaggio per 1-0, ma ha avuto la clamorosa occasione di ribaltare anche il computo totale di questa sfida, che rimane però nei fatti in assoluta parità. Che partita! Lo sentivo dal tuo tono, Dario, che partita. Ci risentiamo dopo. Adesso è il momento di aggiornare chi viaggia e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte con i vostri pareri oppure al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che cominciamo a approfondire qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi che arrivano tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Tonino, a proposito di questa sentenza della Cassazione che annulla la condanna per quel giovane straniero che aveva rubato cose da mangiare per 4 euro a Genova, dice: non è punibile chi ruba per fame, anche per così poco. Tonino dice: sono pienamente d'accordo con questa sentenza. Mimmo scrive: come al solito in Italia una tempesta in un bicchiere d'acqua, bastava una piccola pena e, cosa molto più importante, non pubblicizzare il fatto a livello nazionale. Vabbè, Mimmo sì, fa informazione, e questa è una sentenza che è importante perché potrebbe fare a questo punto giurisprudenza, nel senso che negli altri casi qualcuno potrebbe appellarsi comunque a questa sentenza. Comunque, stiamo per cambiare argomento, mentre voi continuate fino alla fine con le vostre riflessioni, fino alle 22 su questo tema. Adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Appalti truccati, arrestato il sindaco PD di Lodi. Intanto Mantovani, ex vicepresidente della Lombardia, dopo l'arresto torna in aula e il Movimento 5 Stelle blocca i lavori. Frena il PIL italiano nelle previsioni della Commissione europea. Dall'1,3% il PIL scende nelle previsioni all'1,1%. Egitto, piano segreto per la stampa, censura nei confronti della stampa sul caso Regeni. Sono state inviate dal governo egiziano per errore delle mail che sono arrivate ai media. E poi parte in Italia la corsa al referendum. Renzi dice bisogna dire sì al futuro. Già ne aveva parlato ieri dei risultati del suo governo in questi due anni e voi avete abbondantemente scritto su questo argomento. Migranti, l'Europa va verso l'abolizione dei visti per i cittadini turchi. E poi su Girone, uno dei due fucilieri, quello che è ancora in India, parola alla Corte Suprema indiana, quindi il caso non è ancora risolto, almeno il suo ritorno. E poi la condanna per Romano Nucci a Roma, sesso con i minori, condannato a 15 anni. Ora, prima di parlare di politica, di questa nuova tegola sul PD e anche del caso Mantovani, vorrei che Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che saluto, ben arrivato Marco. Grazie, buonasera a voi. Ci traducesse questa vicenda di Veneto Banca, perché le banche ci fanno fibrillare parecchio da un po' di tempo a questa parte. Leggevo questa agenzia tutta stellata, tutta con il bollino rosso, in cui il presidente di Veneto Banca, Pierluigi Bolla, dice in merito all'ipotesi che Atlante, cioè quel fondo varato nelle settimane scorse di sostegno alle banche, possa intervenire nell'aumento di capitale della banca di Montebelluna, dice ad oggi riteniamo che Atlante non sia necessaria. Ci fai capire tutta l'importanza di questa dichiarazione, Marco? Sì, ci proviamo, perché come accennavi, effettivamente per le banche è un momento particolarmente tormentato. Pochi giorni fa si è scoperto che l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza, 1,5 miliardi, di fatto è andato quasi completamente deserto, motivo per cui Borsa Italiana ne ha impedito la quotazione. Morale, Atlante, questo fondo di sistema, dovrà versare integralmente 1,5 miliardi che serviva. Chiusa l'operazione, per quanto diciamo con una pezza, Popolare Vicenza, la prossima è quella di Veneto Banca, l'altra grande popolare del nord-est, che esattamente come la vicentina, dopo le ispezioni, insomma le analisi effettuate dalla BCE sui conti, è emersa la necessità di un aumento di capitale da 1 miliardo. Ebbene, l'operazione dovrebbe avvenire intorno alla metà di giugno e quindi tra un mese. Oggi, parlando alla vigilia di un'assemblea che si terrà dopodomani, un'assemblea peraltro molto delicata perché è la prima assemblea da società per azioni, quindi un'assemblea che dovrà rinnovare il CDA contando il capitale, non le teste, e questo diciamo apre un po' a tutti gli scenari. Ebbene, il presidente uscente Bolla ha detto per il momento sembra che il nostro aumento possa andare in porto anche senza l'intervento del Fondo Atlante, ed è, se così sarà, potrebbe essere una buona notizia, perché come dire, se il mercato ha esprimesso una maggior fiducia sulle banche italiane dopo il caso Popolare di Vicenza, sicuramente sarebbe un sollievo per Veneto Banca, per i soci che evidentemente potrebbero avere qualche possibilità di vedere ristorato almeno in parte tutto quello che hanno perso, ma anche per le altre banche. Non dimentichiamo che oggi, ancora una volta, è stata una giornata molto difficile per tutte le banche in borsa. Grazie Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Ciao Marco. A voi. Ciao. Ancora i vostri messaggi relativamente al furto del giovane a Genova. Andava condannato per furto e poi eventualmente gli si doveva condonare la pena, lasciando però così valida la legge. Emanuele scrive: rubare è reato, la magistratura dovrebbe avere l'obbligo di far rispettare le leggi nell'interesse dell'ordine sociale, che ricordiamolo serve soprattutto a difendere i più deboli garantendo uno stato di diritto. Per i casi umani, continua Emanuele, esiste l'istituto della grazia, che non annulla i reati ma riconosce che la pena può anche essere condonata e si salva così forma e sostanza. Ma adesso andiamo sulla politica, con la notizia politico-giudiziaria di oggi, che dà una certa, diciamo così, continuità a un periodo non proprio roseo per il PD. Non molto tempo fa, vi ricordate, c'era stato il caso del presidente del PD della Campania, Stefano Graziano, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, no? Oggi il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, del PD, è stato arrestato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza per turbativa d'asta. In pratica cosa ha fatto? È accusato di aver favorito, facendo confezionare un bando su misura, la società Sporting Lodi nella gestione delle piscine comunali scoperte della città. Insieme a lui è stato arrestato anche l'avvocato Cristiano Marini, che era consulente dello Sporting. La finalità, secondo la giudice per le indagini preliminari, era ottenere vantaggi per sé in termini di consenso politico-elettorale e per la società aggiudicatoria. La GIP di Lodi, che ha disposto l'arresto, parla di un comportamento che desta notevole allarme sociale. Dice: hanno dimostrato questi due assoluta spregiudicatezza. Insomma, dice che veramente anche delle intercettazioni è una situazione molto grave. Uggetti si difende dicendo che è innocente. Guerini, il vice segretario del PD, che è stato sindaco di Lodi, e Uggetti è stato due volte suo assessore, dice: una persona trasparente, limpida, insomma, ho stima di lui per quello, per come l'ho conosciuto. E però naturalmente l'opposizione va subito alla carica. Sentiamo per esempio Di Battista del Movimento 5 Stelle. Esiste nel PD una questione immorale, lo vediamo ogni giorno, insomma, posso ricordarveli: Trivellopoli, Mafia Capitale, Expo, Mose, Genovese, Francantonio Genovese arrestato perché si sono rubati i fondi destinati ai giovani siciliani, lo scandalo sanità in Lombardia, l'arresto di Mantovani, quelli che mangiavano pure sulle dentiere, e quello della Lega che si nascondeva i soldi dentro il freezer forse per congelare i beni, i scandali sanità in Calabria, io non lo so, sono innumerevoli. Nelle ultime due settimane, in 14 giorni, è stato sciolto il comune di Brescello per mafia, a guida PD, primo comune delle Emilia Romagna sciolto nella storia della Repubblica Italiana per mafia. C'è stato lo scandalo, l'ennesimo, Gomorra PD, con il presidente del Partito Democratico campano sotto indagine per associazioni stampo camorrista, per, diciamo, concorso esterno, e oggi l'arresto del sindaco di Lodi, di fatto braccio destro appunto del vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini. Questo Di Battista del Movimento 5 Stelle, e risponde Emanuele Fiano del PD. La Lega e il Movimento 5 Stelle, invece di fare sciacallaggio contro il Partito Democratico nella giornata di oggi, dovrebbero solo tacere. Tra mutande verdi, dentiere in Lombardia, ipotesi di distrazione di fondi pubblici, Bagheria, Quarto, Livorno, dovrebbero avere l'onestà di tacere. Noi abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, che ci auguriamo lavorerà rapidamente per dare risposta alle domande che sono sorte oggi. Noi agiamo con molta rapidità e risolutezza nei confronti dei nostri dirigenti quando ce n'è bisogno. Abbiamo agito in questa legislatura duramente contro la corruzione. Oggi non accettiamo lezioni da nessuno. Barbara Fiammeri, quindi si ripropone la questione morale, o come ha detto Di Battista, la questione immorale. Sicuramente non è un momento facile per il PD questo, anche se ovviamente bisognerà vedere come procede questa inchiesta. Beh, certamente diciamo che per il PD è un periodaccio, come spesso è accaduto in Italia per chi poi ha posizioni di potere. Purtroppo in questo paese, diciamo, la corruzione e comunque, diciamo, il malaffare politico, anche quando non ci sono di mezzo direttamente soldi, lo conosciamo da sempre, e chiaramente chi ha più come dire, responsabilità politiche è più soggetto a essere incriminato, insomma. Poi è evidente, no, che in questo momento sia per il governo sia nelle amministrazioni, essendo il Partito Democratico il partito più forte e quello più presente in posizioni di potere, le possibilità che suoi esponenti siano coinvolti aumentano. Quindi tu dici è direttamente proporzionale alle posizioni, al numero di posizioni occupate, purtroppo, e anche ai livelli di potere. Purtroppo la storia ci insegna questo, cioè io non dimentico che negli anni 70 e 80 a portare avanti, a parlare di questione morale proprio come espressione, questione morale, fu Enrico Berlinguer, allora segretario del Partito Comunista Italiano, che però era, come dire, all'opposizione, quindi era estromesso, diciamo, da posizioni di potere diretto. E poi nel corso degli anni abbiamo visto anche la Lega, che era quella che sventolava e faceva oscillare i cappi Roma ladrona, Craxi, Roma ladrona, e poi abbiamo visto com'è finita. Quindi ci sono purtroppo, dico, è un problema endemico per il paese, perché vediamo che non risparmia nessuno, non solo nella politica, purtroppo, ripeto. Veramente avvilente, no, Barbara Fiammeri? Anche perché chi arriva a posizioni di potere, al di là che si dica magari retoricamente deve lavorare per una missione, per il bene della collettività, però forse già potrebbe essere gratificato, no, del ruolo che riveste. Guarda, io sì, questo senza dubbio, diciamo, in linea di principio sì. Dopodiché penso sempre che chi ha posizioni di potere assume anche maggiori rischi, nel senso che è molto facile per noi, parlo anche di noi giornalisti ad esempio, puntare l'indice nel momento in cui non ci troviamo mai a dover prendere delle decisioni. Sarebbe bene, ecco, questo sì, che quando si arriva a delle inchieste che coinvolgono amministratori pubblici, proprio per la rilevanza, no? Perché appunto sono amministratori pubblici, queste inchieste abbiano un percorso, come dire, accelerato. Bisognerebbe trovare un sistema perché poi si arrivi a sentenza in tempi rapidi, perché altrimenti c'è sempre da una parte l'ipotesi complottista, dall'altra rubano tutti, che sicuramente non fa il bene del paese, per cui quando ci sono queste inchieste dovrebbero esserci dei processi per direttissima come in flagranza, sì, di reato. Sì, insomma. Questo è vero, Barbara. Senti, invece sul caso Mantovani, spostiamoci, siamo sempre comunque in Lombardia, l'ex vicepresidente della regione Lombardia, sì, di Forza Italia, no? Braccio destro di Maroni, sì, dopo l'arresto per corruzione che lo aveva tenuto ai domiciliari e lo ha fatto decidere per la rinuncia alla carica appunto di numero due del Pirellone, resta però consigliere perché oggi è voluto tornare negli uffici regionali, sì, lombardi. Lui è stato scarcerato nei scorsi giorni per un cavillo legale ed è tornato libero e quindi dice, ha detto oggi, non fuggo, sono innocente, affronterò questa sfida che è seconda solo alla morte nei luoghi affidatimi dagli elettori, voglio rimanere consigliere regionale per dignità e rispetto della volontà degli elettori. Poi se abbiamo tempo, forse siamo un po' di corsa, ma abbiamo anche l'audio, e poi il Movimento 5 Stelle ha protestato. A te sembra, da un punto di vista di opportunità politica, che abbia fatto bene Mantovani a tornare? Allora, è ovvio che quando un personaggio pubblico è coinvolto in un'inchiesta di questa gravità farebbe bene a mettersi da parte, dopodiché entrare nelle decisioni personali, se qualcuno si sente ingiustamente attaccato è giusto che si difenda, diciamo che forse sarebbe più corretto farlo fuori dalle sedi istituzionali, come ad esempio il Consiglio regionale. Però ripeto, anche qui non riesco a dare a puntare l'indice rispetto a un comportamento. Credo che sarebbe opportuno per chiunque, in qualunque campo, anche privato, se si viene coinvolti da un'inchiesta, per quanto si ritenga di essere ingiustamente coinvolti, proprio per preservare l'istituzione, in questo caso per di più un'istituzione pubblica, farsi temporaneamente da parte, poi se le cose vengono chiarite farsi temporaneamente da parte, senza dimenticare però che è vero quanto si dice, che molta gente che si è fatta da parte poi dopo poi anche a distanza da innocente di anni è stata giudicata innocente, e questo certamente pone da parte degli interrogativi, rimasta, diciamo. perché pone degli interrogativi, perché erano comunque pressione, diciamo, erano rappresentanti eletti, quindi si pone un problema anche da questo punto di vista. Chiarissimo. In un paese normale chi viene sospettato, anche solo sospettato, non solo di questioni proprio giudiziarie, ma anche di cose che hanno semplicemente una responsabilità politica, quindi non penale, tendenzialmente le persone si dimettono e si fanno da parte. In Italia diciamo, è molto complicata la questione. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Grazie a voi. E ora vedo ancora i vostri messaggi, sono tantissimi. Andrea da Bologna dice: non rubare, settimo comandamento, senza se, senza ma, tra un po' giustifichiamo il ladrocinio dei politici, chiediti sarà dato, dice Andrea da Bologna. 349-238-6666, pagina Facebook di Effettonote per continuare a commentare la sentenza della Cassazione di ieri sul giovane straniero che è stato assolto per aver rubato per fame, e qual è la vostra posizione in merito. Ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano sempre con voi. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla sentenza della Cassazione di ieri, e oggi sono state le reazioni, la Cassazione che ha annullato la condanna per un giovane straniero che aveva rubato per 4 euro in un supermercato perché aveva fame, e qualcuno dice ma come hanno potuto denunciarlo e processarlo attraverso 3 gradi, e qualcun altro dice no, la legge è la legge, potevano combinargli, come dice il sindaco Tosi di Verona, una pena lieve, ma comunque insomma fargli capire che queste cose non si fanno e quando si infrange la legge c'è la sanzione. Cristiano e Alessandro citano De André, dice ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. E Simone dice penso che non si può andare in galera per 4 euro ma assolvere è assurdo perché deve valere come precedente, come monito, se continui a rubare ti dovrò arrestare. 349-238-6666. Pagina Facebook di Effetto Note, tra poco affrontiamo un altro argomento. Vogliamo sentire se Crozza sulla 7 dice qualcosa che ci strappa un sorriso? Giova Trapattoni che commenta le dirette dell'Italia. In fondo, no, siete due vecchie glorie, Bersani. Uno commenta la nazionale. Sta parlando di Bersani, di calcio e di politica insieme. Allora, queste le notizie più importanti. Lodi arrestato per appalti truccati, il sindaco PD della città che si dice innocente, ne abbiamo appena parlato. Guerini difende l'ex braccio destro, 5 stelle all'attacco. Economia, la Commissione europea vede in Italia una crescita moderata, ma rivede al ribasso il PIL 2016 dall'1,4 all'1,1%, ed è stata ancora una giornata difficile per le borse. Il caso Regeni, ne parleremo a momenti. Migranti, l'Europa verso l'abolizione dei visti per i cittadini turchi, e poi in Siria continua la carneficina ad Aleppo, altri 14 morti nel bombardamento di un altro ospedale. La vicenda quindi è di Giulio Regeni. La novità di oggi è questo ordine di censura sul caso della morte del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto. Un ordine proposto al procuratore generale del Cairo nel piano segreto del Ministero dell'Interno egiziano. Detta così sembra un po' complicata, ma in parole povere è un caso che diventa sempre più imbarazzante, perché il governo egiziano avrebbe mandato per errore delle email ai vari media egiziani, a media giornalisti, in cui in queste mail sono contenuti, oltre a un piano antistampa, anche un ordine di riservatezza che il dicastero ha chiesto alla Procura Generale egiziana di emettere sull'omicidio del ricercatore Giulio Regeni. Si legge: per quanto riguarda la gestione mediatica dell'omicidio di Regeni e il ritrovamento dei suoi effetti personali nell'abitazione di uno dei componenti della banda uccisa il 24 marzo scorso, e dopo gli sviluppi mediatici successivi e l'intenzione di alcuni organi di stampa di accusare il Ministero dell'Interno in questo caso, chiediamo a Sua Eccellenza di coordinarsi col signor Procuratore Generale per emettere un ordine di riservatezza sul caso sino alla fine dell'inchiesta. Ne parliamo con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Ugo. Buonasera. Che ti sembra di questa, non so se effettivamente è stato un errore, un accidente o qualcuno che ha fatto passare queste mail per dimostrare ancora una volta che non solo c'è scarsa voglia di collaborazione da parte dell'Egitto con l'Italia, ma che su questo caso i sospetti che abbiamo da parte nostra su quella che sia stata la fine di Giulio Regeni sembrano sempre più attendibili? Beh, non mi pare non ci sia assolutamente nulla di nuovo, cioè, non ci sarebbe anzi quasi una commedia ridicola se non ci fosse nello sfondo una tragedia reale. Cioè, abbiamo sempre saputo che il governo egiziano non vuole darci la verità, però mi sembra interessante questa cosa, nel senso che è vero che il governo egiziano, il potere egiziano non vuole darci la verità, però ci sono delle falle, ci sono delle crepe, non credo che una cosa di questo genere, dire, tutto è possibile in Egitto, però non credo che una cosa così sia possibile, ma dimostra invece che esistono invece diversi centri di potere e che è in corso una guerra, uno scontro molto duro all'interno del potere egiziano, perché in fondo al presidente Assisi sarebbe bastato semplicemente, come dire, sacrificare i 3 poliziotti responsabili e un paio di altri funzionari o del Ministero degli Interni o del Mukhabara, dei servizi segreti. Se un presidente che si vende come un nuovo Napoleone dell'Egitto e del Medio Oriente non è in grado, non ha il potere politico di fare una cosa così per poi ripristinare eccellenti rapporti con l'Italia, significa che il presidente è debole, che all'interno del sistema e del regime c'è una lotta molto dura che ogni tanto ci fa arrivare dei messaggi per confermarci appunto che il responsabile dell'omicidio, della tortura, dell'omicidio di Giulio Regeni è il regime. Già. Senti, Gentiloni oggi, ministro degli esteri italiano, in un'intervista alla CNN ha detto: abbiamo chiesto all'Egitto di avere almeno una seria cooperazione nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni, ma fino ad ora la cooperazione non è stata soddisfacente. Spero che nei prossimi giorni, ha aggiunto Gentiloni, le cose cambino, ma francamente voglio vedere i risultati prima di essere ottimista. Ora, mi sembra che questa cosa venga ripetuta da mesi. Siamo inevitabilmente un po' patetici perché dobbiamo anche cercare di mantenere i rapporti diplomatici, quindi speriamo sempre che ci sia questo spiraglio, che alla fine la collaborazione ci sia, o cosa? Ma no, cioè siamo anche noi in un cul-de-sac, cioè non siamo patetici, cioè il problema di fronte al quale qualsiasi altro paese si sarebbe trovato, e cioè c'è la morte di un giovane italiano, una morte inaccettabile di un giovane italiano, e al tempo stesso esistono relazioni fra due paesi che vanno al di là del regime che c'è in Egitto. C'era con Mubarak, che c'era con i fratelli musulmani, e c'è adesso con Al-Sisi. Mm. E all'interno di questa doppia realtà dobbiamo cercare di mantenere le relazioni. Forse l'abbiamo già detto una volta in un'altra trasmissione: a causa delle inadempienze, dell'incapacità, della mediocrità dei sistemi di sicurezza egiziani, i terroristi hanno abbattuto un aereo con 300 e passa passeggeri russi, eppure i russi non hanno rotto le relazioni diplomatiche con gli egiziani. Naturalmente potremmo anche dire che forse se fossero stati i francesi, se fossero stati gli americani, gli egiziani non avrebbero fatto questo. Non lo so. Io credo che alla fine poi sia stato, come dire, un errore, una fuga di alcuni funzionari dei servizi segreti che hanno, come dire, torturandolo, hanno ucciso un giovane italiano che avrebbe dovuto essere di qualsiasi altro paese. Cioè, non mi pare di capire che non cercassero Giulio e che non ci fosse assolutamente un complotto contro gli italiani. È successo, e come sempre succede in questi casi, noi dobbiamo trovare la lì sottile linea grigia tra la richiesta di avere giustizia per la morte ingiusta di un ragazzo e i rapporti politici, economici, diplomatici con un paese che è importante. Non dimentichiamo che poi, tra l'altro, in quella regione c'è poco, perché adesso con l'Egitto abbiamo congelato i nostri rapporti economici, con la Tunisia quasi anche. L'Iran certo non è un paese sul quale ci si possa affidare, cioè non è ancora, cioè non conosciamo bene, non è chiaro nemmeno agli stessi iraniani il loro futuro. Quindi noi, un paese deve anche tenere conto di queste cose, fermo restando che non ci si può muovere dalla richiesta formale ed effettiva, umana, politica e morale. E insistente di avere verità su questo caso. Insistente di avere giustizia sulla morte di Giulio. Grazie Ugo Tramballi. Ciao. Grazie Ugo. A voi. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Giampaolo scrive: sbaglio, il codice penale prevede un esimente che si chiama stato di necessità. Evidentemente la Cassazione, sul caso del giovane straniero a Genova, ha ritenuto che il giudice di merito che ne aveva ritenuto la sussistenza avesse fatto una sentenza corretta. Continuate con le vostre riflessioni. Vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti della giornata: sulla novità sul caso Regeni di cui abbiamo appena parlato, poi l'arresto del sindaco di Lodi, sindaco PD, per appalti truccati, frena il PIL italiano secondo le previsioni dell'Unione Europea, e poi parte la corsa al referendum lanciata già ieri da Renzi per il sì, e la festa di Ranieri, che è re d'Inghilterra. Vincere da vecchi, dice, è indimenticabile. Europa 24 notte. Per lo spazio europeo parliamo della libera circolazione dei cittadini turchi in Europa. Domani la Commissione europea potrebbe dare il via libera, condizionato all'esenzione dei visti per i cittadini turchi in Europa, come previsto dal controverso accordo firmato da Ankara con Bruxelles sui migranti. Non mancano però le voci critiche, come quella dell'europarlamentare dei 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Domani la Commissione europea presenta la valutazione dei progressi compiuti dalla Turchia per ottenere la liberalizzazione dei visti, liberalizzazione che dovrebbe avvenire entro giugno e che rappresenta una delle voci dell'accordo che ormai lega l'Unione ad Ankara in merito al controllo dei flussi dei migranti. Era stato chiesto alla Turchia di rispondere a 72 condizioni. Secondo indiscrezioni, mancherebbero ancora all'appello alcune risposte, non molte, ma alcune di un certo peso, per esempio il controllo delle frontiere. All'interno del Parlamento europeo si sono levate voci piuttosto critiche, tra le quali quella di Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare in Commissione Esteri del Movimento 5 Stelle. Purtroppo dobbiamo sottolineare che in questo caso questa liberalizzazione sta avvenendo a tappe forzate e un po' obtorto collo, se vogliamo, quindi con una pressione fortissima da parte di Ankara, quasi un ricatto per via, insomma, della possibilità che ripartano di nuovo i flussi migratori, ma questo ha dei presupposti che in questo momento non sono minimamente soddisfatti. Pensiamo ad esempio al controllo delle frontiere. La Turchia è stata nel corso di questi anni una vera e propria autostrada del jihadismo internazionale. La stragrande maggioranza di jihadisti provenienti dall'Europa, ma anche dal resto dell'Occidente, è transitata proprio tramite i confini turchi, e senza che le autorità intervenissero seriamente per arginare un flusso che ha riguardato decine di migliaia di uomini. Poi, oltre a questo, bisogna ricordare anche il gravissimo stato dei diritti umani all'interno della frontiera turca. Non è solo una questione di merito, è anche una questione di forma che in questo caso ha dei riflessi sulla sostanza. L'europarlamentare Castaldo intende presentare istanza di annullamento dell'accordo davanti alla Corte di Giustizia. È stato concluso un accordo che è giuridicamente illegale e dovrebbe essere annullato. Questo accordo, che è un accordo a tutti gli effetti, perché come abbiamo detto ci sono delle condizioni e delle richieste vincolanti da ambo le parti che devono essere soddisfatte, il famoso schema 1-1 per i rifugiati, la liberalizzazione dei visti, gli aiuti economici, il fatto che la Turchia accetti appunto di rimpatriare i rifugiati dalla Grecia e dal resto d'Europa, delinea poi una palese incongruenza con l'atto formale in cui è stato racchiuso, perché formalmente noi parliamo di una dichiarazione. Se è una dichiarazione di intenti non può essere giuridicamente vincolante, se invece lo è un accordo internazionale. Facendolo passare per dichiarazione hanno esautorato il Parlamento europeo dal poter votare sulla bontà o meno dell'accordo, con un voto che doveva essere obbligatorio e vincolante a norma dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ve li immaginate voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un'auto che non guidate, magari voi, non so, intanto vi truccate, vi fate la barba, leggete un giornale, guardate il vostro tablet? Ne parliamo con Enrico Pagliarini, conduttore 2024, il venerdì sera alle 22, sempre dopo Effetto Notte. Ciao Enrico. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Allora, doveva arrivare oggi la firma di questo accordo, mi pare sia slittato a questo punto a domani, tra Fiat Chrysler Google. C'è anche chi dice che sta per arrivare, quindi a momenti. A momenti addirittura. Non so, sì, ci sono diretto, voci che dicono questa cosa. Bene, attendiamo con ansia. Però la cosa particolare sta in questo. Effettivamente vedremo circolare come se nulla fosse nelle nostre strade queste auto senza pilota a breve? Su questo no, a breve no. A breve no, però sul fatto che arriveranno auto a guida autonoma, quindi di fatto dei robot, delle macchine automatiche che girano per la città, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Già oggi ci sono delle automobili in commercio che fanno moltissime cose automaticamente, mantengono la distanza di sicurezza, se metti la freccia superano da sole, mantengono la corsia perché hanno delle videocamere che riescono a capire dove ci sono le corsie. Questo naturalmente succede molto facilmente in autostrada, quindi già la tecnologia è molto avanti. Non arriveranno a breve, soprattutto perché bisognerà intanto riscrivere il codice della strada, e già, questo in tutti i paesi. Certo, perché anche si potrebbero Stati porre Uniti un sacco di problemi. Se fa un incidente, un'auto del genere, che tu non stai guidando, chi è la colpa tua, del produttore? Esattamente. Esatto, questo è uno dei problemi da risolvere. Pensiamo a tutta la giurisprudenza e tutte le normative legate al mondo delle assicurazioni. Già. E poi senza pensare al business delle assicurazioni, perché naturalmente le automobili automatiche non dovrebbero fare incidenti. Dovrebbero essere infallibili, praticamente. Sì, assolutamente infallibili. Infatti le assicurazioni sanno benissimo come sarà questo futuro e sono un po' preoccupati. Ci sono già delle statistiche o comunque delle previsioni di calo del fatturato. Bisognerà inventarsi nuovi business, perché poi le automobili con questi sensori si guardano e comunicano l'una con l'altra, e quindi se un'automobile sta frenando non è che l'automobile che segue la vede, sa perché le due automobili comunicano tra di loro che quella che sta davanti sta frenando, e quindi di conseguenza la macchina frena. Ma comunicano anche con quelle che non sono, che hanno un tradizionale questo è un altro dei problemi, cioè gestire l'interregno tra il mondo di oggi e il mondo di sole automobili autonome, automatiche. Si creeranno un sacco di problemi, ci sono già studiosi che stanno pensando a come saranno le nuove regole, e questo sarà uno dei grossi problemi. Però devo dire, la tecnologia già oggi è molto molto molto pronta, e c'è quasi tutto. Devo dire che non fanno il 100% delle cose, soprattutto non lo fanno con la rapidità e la velocità alla quale noi siamo abituati, soprattutto nei paesi europei e in Italia in modo particolare. Se poi uno va negli Stati Uniti ci sono strade grandi, tutti disciplinati o comunque quasi tutti disciplinati, e lì l'automobile automatica è molto più facilitata. Scusa Enrico, però diciamo che per i diversamente abili magari può essere utile, per il resto lo trovo piuttosto inquietante. Poi a me piace guidare, quindi non credo che acquisterò mai una macchina Guarda, qui ci sono varie correnti di pensiero. Allora, Elon Musk, che è il capo di Tesla, ha detto in futuro sarà illegale guidare. E qui si aprono una serie di problemi, perché c'è chi dice no, gli uomini continueranno a guidare perché uno potrà scegliere, e invece c'è chi dice che quando ci sarà un numero molto elevato di automobili a guida autonoma, gli umani non potranno più guidare, perché sono gli umani a creare incidenti, mica i robot. Grazie Enrico Pagliarini, torneremo su questa futuribile auto, ma intanto c'è Dario Ricci che ci vuole aggiornare velocemente sulla Champions. Dario? Sì, siamo al 55esimo di gioco all'Allianz Arena, è incredibile il pareggio dell'Atletico Madrid, contropiede dei madridisti, e Griezmann, il goleador stagionale dei biancorossi, a trafiggere Neuer in uscita, quindi risultato di 1-1 tra Bayern Monaco e Atletico Madrid. Ricordiamo che il Bayern Monaco sull'1-0 ha anche fallito un calcio di rigore con Thomas Müller, risultato che qualificherebbe a questo punto l'Atletico Madrid alla finale. Grazie Dario Ricci, ci sentiamo alle 22.